La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti a un nuovo appuntamento con la storia e la memoria. Questa sera, per l'approfondimento di Dino Pesole, è ai nostri microfoni Benedetta Tobagi, figlia di Walter, autrice di Come mi batte forte il tuo cuore, storia di mio padre. Nella seconda parte concludiamo il nostro viaggio di avvicinamento all'anniversario della caduta del muro di Berlino con l'ultimo reportage della serie I diari dalla cortina di ferro. Infine ascolteremo un radiodocumentario realizzato in collaborazione con History Channel dedicato alla figura del generale americano Patton, ripercorrendo il suo comando in Nord Africa nella sfida con il generale Rommel. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. La sconfitta politica del terrorismo passa attraverso scelte coraggiose, è la famosa risaia da prosciugare. A scrivere queste brevi considerazioni è Walter Tobagi, giornalista del Corriere della Sera, presidente del Sindacato dei giornalisti lombardi, ucciso il 28 maggio del 1980 dalla Brigata 18 Marzo, una formazione terroristica di sinistra semisconosciuta. Ora la vicenda umana e professionale di Walter Tobagi ci viene riproposta in un libro scritto dalla figlia Benedetta dal titolo Come mi batte forte il cuore, storia di mio padre, pubblicato proprio in questi giorni da Einaudi. Quando Tobagi è morto aveva 33 anni, il figlio Luca 7, Benedetta 3. Del padre conserva solo alcuni fotogrammi di ricordo e una grande, incolmabile mancanza. La sera prima di essere assassinato, Tobagi presiedeva un incontro al Circolo della Stampa di Milano. Parlò della libertà di stampa, appunto della responsabilità del giornalista di fronte all'offensiva delle bande terroristiche, problemi che conosceva a fondo. Poche ore più tardi cadeva sull'asfalto sotto i colpi dei suoi giovani killer. È vero che c'è un imbarbarimento della società italiana che tocca tutti, ma sappiamo purtroppo come nasce questo imbarbarimento e possiamo meravigliarci ogni volta che scopriamo degli effetti prodotti da questa situazione. Abbiamo in linea Benedetta Tobagi, figlia di Walter Tobagi, che ha scritto questo bel libro Come mi batte forte il tuo cuore, storia di mio padre. Intanto grazie Benedetta per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Allora, com'è nata l'idea di scrivere un libro che racconti, come dire, una tragedia che ha segnato completamente la tua vita? Ma è un'idea molto antica, perché è nata insieme a una ricerca spiccatamente privata, che era la ricerca del mio papà, che io non avevo avuto modo di conoscere, ma di cui possedevo le carte, per cui possedevo queste tracce, questi documenti che per me avevano un valore affettivo grandissimo. Poi questa idea, questo germe di progetto si è incrociato proprio con la consapevolezza che, anche perché mi scontravo con degli ostacoli, cioè non riuscivo a capire bene cos'era successo, si è incrociato con la consapevolezza che per capire la storia mia e di mio papà dovevo occuparmi di un pezzo di storia del paese. E qui appunto le carte, che avevano un valore affettivo, sono diventati dei documenti per una ricerca che è anche una ricerca storica. E a quel punto ha cominciato a prendere forma il desiderio di raccontare questa storia, che insieme a pubblica e privata, di un periodo storico molto complesso, su cui si scrive molto, ma del quale molti aspetti sono assai poco frequentati. Per esempio aspetti collegati alla vicenda di mio padre, come le trasformazioni vissute dalla stampa in quel periodo, cose di questo genere. Da qui l'idea di fare un libro che cerca di coniugare la ricostruzione dei contesti e l'analisi della documentazione insieme alla narrazione, e il livello pubblico e il livello privato, e cercare di mettere al centro, per esempio, dei segmenti del fenomeno terroristico italiano poco frequentati, come tutto quello che è stato il terrorismo di sinistra diverso dalle Brigate Rosse, perché da lì vengono gli assassini di mio padre, oppure appunto le trasformazioni della stampa, le vicende sindacali, la vicenda della loggia P2. Tutte vicende che hanno segnato la nostra storia recente in modo tragico. Io ho qui davanti il tuo libro e mi colpisce molto questa parte in cui tu parli di quella mattina in cui i killer hanno ucciso, scrivi anche la mia innocenza, l'atteggiamento di fiducia che i bambini hanno verso un mondo che si immagina ordinato, lineare, ragionevole. Ecco, questo aspetto, diciamo, personale, come si, e in che modo si interseca nel libro con la vicenda pubblica di Walter Tobagi? In una maniera molto organica. Io parto e ho scelto di raccontare lo sgomento che provavo da bambina, che era non solo la perdita di un padre, ma in un certo senso era la perdita del senso e una sensazione di grande paura e sfiducia. E questa è la perdita dell'innocenza. Nel libro cerco di raccontare come cercare di capire cos'era successo, cioè dare conto di una tragedia di queste proporzioni, di un omicidio politico che mi appariva profondamente insensato, era parte di un mio percorso di crescita, non solo privata, personale, ma anche intellettuale, un tentativo di comprendere come nel mio paese sono potute accadere certe cose, come si può superarle, come si può impadronirsi di questa storia per creare degli anticorpi per il paese. Io ho usato volontariamente questa espressione, perdita dell'innocenza, che è anche parte del titolo di un libro molto bello di Giorgio Boatti, sulla strage di Piazza Fontana, il giorno della perdita dell'innocenza. È un libro molto bello perché si riferisce a che cosa ha rappresentato per un intero paese, l'Italia, la strage di Piazza Fontana, di cui ricorrerà presto il quarantennale. Sì. Anche lì una vicenda di distruzione di cui all'inizio si stentava a comprendere il senso, che ha segnato il paese e che richiede di essere compresa ed elaborata a livello collettivo. A tuo parere, a distanza di, diciamo, un congruo lasso di tempo rispetto a questi anni tragici, gli anni di piombo, a tuo avviso il paese sta cominciando a sviluppare una nuova anche coscienza critica rispetto a questo passato, o ancora intravedi delle difficoltà anche nel rielaborare in qualche modo vicende di questa portata? Coesistono le due cose, credo che sia la risposta più onesta. Parto dagli aspetti positivi, sotto due profili. Nell'ambito della ricerca strettamente storica, insomma, ci sono state cose molto belle, cominciano ad arrivare dei contributi da ricercatori giovani. Sì. È uscito un bel libro che si chiama Ordine Nero Guerriglia Rossa, di un ricercatore, Pambini, che ha 30 anni, per esempio, sul terrorismo diffuso. Penso al bellissimo libro sulle lettere di Moro di Gotor. Da un punto di vista di elaborazione sociale e collettiva, è stata anche molto importante la presenza di molte opere che si concentravano sulla figura delle vittime della violenza. Sì. E spesso appunto scritte dai figli come me. Io continuo a riscontrare grosse difficoltà perché i terrorismi in Italia si sono intrecciati con dei fenomeni, ne ha parlato il presidente Napolitano. Sì. Nella giornata della memoria del 2009, persino lui ha finalmente parlato dal Quirinale degli apparati deviati dello Stato, delle forme di depistaggio che hanno impedito di raggiungere la verità su molte stragi. C'è molta resistenza ad affrontare gli aspetti che richiederebbero allo Stato una profonda autocritica rispetto ad alcuni metodi, ad alcune deviazioni, delle modalità di gestione del potere, diciamo, molto poco pulite e poco conformi alla Costituzione. Bentornati alla Storia e la Memoria. Fra due giorni saranno trascorsi 20 anni da quella notte in cui a Berlino Est e Ovest tornarono ad abbracciarsi. Chiudiamo con questa sera il viaggio verso l'anniversario della caduta del muro con l'ultima puntata de I Diari della Cortina di Ferro, dedicata ai ricordi, ai pensieri e alle attese dei giovani tedeschi che allora videro cadere il muro. Berlino è struggente. Di giorno maestosa ogni angolo di strada è lì a lavorare per sciogliere il suo passato. Di notte l'affanno dell'animale ferito invade le strade della capitale, che alla storia dell'ultimo secolo ha pagato un conto salato. Dopo 20 anni, la città ha quasi completamente rimarginato quella ferita, lunga oltre 100 chilometri, larga diverse decine di metri. Oggi è ridotta a una semplice doppia fila di pietre di porfido, a punti di sutura, cuciti sull'asfalto. Kreuzberg è forse oggi il quartiere più affascinante di Berlino, e fino al 1989 era un baluardo del mondo occidentale nel ventre della bestia comunista, e oggi uno dei centri della capitale tedesca. Prima della guerra ci vivevano operai e proletari. I viari alberati, i parchi, i numerosi club e il costo delle case molto basso hanno reso Kreuzberg la terra promessa di giovani famiglie, artisti, anarchici e intellettuali più o meno squattrinati. Sasha a Kreuzberg ci è arrivata negli anni 90, con un paio di amici tiene in piedi una galleria di fotografia in Diffenbachstrasse. Di notte salta da un club all'altro portando in giro il suo archivio musicale. My name is Sasha David Joe. David Warnold, 1972, Bochum. I grew up in the 70s and the 80s. Sono cresciuto tra gli anni 70 e gli 80. La DDR allora era molto lontana dalla nostra mente, non esisteva. Era una nazione come la Nuova Zelanda, la Cina. Eppure il confine distava solo 500 km da casa mia. I nostri vicini erano gli olandesi, i francesi, ma non certi tedeschi della DDR. Quando al governo è arrivato poi il Partito Socialista, il punto di vista sulla DDR cambiò. Non appariva più così terribile ai nostri occhi. Qualche notizia arrivava dalla capitale, Berlino Est, e qualcosa da Dresda e Lipsia. Ma non conoscevo assolutamente nulla riguardo alle altre città della DDR. Gera, Halle, Rostock, Karl-Marx-Stadt. Potevano anche non esistere. La DDR prendeva vita solo nei discorsi della politica. Noi tedeschi non ci preoccupavamo di quanto succedeva oltre confine. People in Western Germany didn't think about East Germany. It was very funny sometimes in the. Era molto divertente. Nei notiziari in televisione, alle 8 di sera, quando c'erano notizie della Germania Est, sullo schermo appariva una carta geografica. La Germania dell'Ovest era verde chiaro e la DDR verde scuro. E all'interno del verde scuro c'era una città lontana, molto lontana, Berlino Est. East Berlin. For us it was like Moscow. Per noi era come Mosca. Ecco, questa è un'immagine della mia infanzia che tengo bene a mente. Questi due tipi di verde che stavano a indicare due paesi. Raramente vedevamo qualche filmato di uomini in abiti grigi, di pessimo taglio, Honecker, Ulbricht o altri uomini politici che tenevano lunghi e noiosissimi discorsi alla televisione. Honecker o Ulbricht. Anja Frobel, 1971, Berlino Ovest. Il muro era una cosa normale, che c'è sempre stata, e non mi chiedevo perché ci fosse, faceva parte della mia città. I miei genitori si sono sempre tenuti alla larga dalla politica e non mi hanno mai detto più di tanto. My parents are not so political people, they are. Quando in seguito ho cominciato a fargli delle domande sul perché vivevamo in una città circondata da un muro, si limitavano a dire che delle persone stupide avevano pensato di creare quella situazione. Qualche volta venivano a trovarci dei parenti. Ci chiedevano di portarli al Viewpoints per dare un'occhiata oltre il muro. Era una situazione molto simile allo zoo. Eravamo circondati da questo serpente di cemento. È stato solo crescendo che ho cominciato ad avvertire la anormalità della situazione, il disagio. Quando poi avevo 18 anni, tutto è cambiato. È stato uno dei momenti più importanti della mia vita. La gente gridava di gioia, rideva, piangeva, assaporavano l'idea di libertà. Paul Kalkbrenner è il re della notte berlinese, e non solo. È il DJ del momento e Berlin Calling, il film che lo vede impegnato come attore protagonista, gli ha messo le ali. Ogni sua performance al weekend di Berlino o a New York, Miami o Tokyo tiene svegli per tutta la notte migliaia di giovani che ballano in trance fino all'alba. A Berlino dicono Schwarzblau, dal nero al blu. Sono nato a Lipsia, ma cresciuto a Berlino Est. Il muro è caduto quando avevo solo 12 anni, per cui non ho fatto in tempo a cadere sotto la pressione del regime comunista. E devo dire che ho avuto un'infanzia abbastanza serena. Sono stato molto protetto dalla mia famiglia. Penso di essere stato fortunato a vivere il fenomeno dell'integrazione tra Est e Ovest nel pieno dell'adolescenza, quando tutti i sensi sono amplificati. You know, all the hooks up. David Vernold ha vissuto la svolta soprattutto attraverso lo schermo della TV. L'effetto Wende ha impiegato qualche settimana per correre i 500 km che dividono Berlino da Bochum. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Umgang mit Superlativen ist Vorsicht geboten, sie nutzen sich leicht ab. Aber heute Abend darf man einen riskieren. Dieser 9. November ist ein historischer Tag. 89 is coming, was coming. Ma poi è successo quel che è successo. È arrivato il 1989. Per noi fu un momento affascinante, ma potevi percepire questo cambiamento solo attraverso la televisione. Abbiamo visto città che non avevamo mai visto, persone vestite in maniera orribile, con un taglio di capelli veramente strano, e parlavano dei dialetti molto buffi. Io avevo 17 anni nell'89 e per la prima volta, dopo 17 anni, mi dissi: «Oh, ma ci sono altri tedeschi!» Ma dal momento in cui spegnevo la TV, tutto tornava come prima. Nella vita fuori in strada, nulla era cambiato. Ma dopo poche settimane, le prime persone dell'est arrivarono nella mia città. Noi eravamo giovani, andavamo ancora a scuola. Per loro fu un periodo non troppo bello, perché noi li prendevamo in giro. Per David Vernold è stato scioccante, come quando scopri di avere un fratello di cui non hai saputo mai nulla in un'altra parte del mondo. From one day to the other, it exists. It exists. The other Germany exists. All'improvviso, da un giorno all'altro, ci siamo accorti che esistevano i tedeschi dell'est. Ci furono dei momenti di emozione incredibile che io, come ti ho detto, ho vissuto attraverso la TV. Il famoso discorso di Genscher all'ambasciata di Praga. Gli occhi di Paul Kalkbrenner sorridono mentre con entusiasmo frenetico ripercorre gli anni in cui la Berlino Underground si riversava nella terra di nessuno. Quei tempi, tra il 92 e il 96, sono stati incredibili. Eri appena uscito da una dittatura, non come quella nazista, certo, ma pur sempre di dittatura parliamo. E scendevi in strada e ti trovavi nel mezzo di scene pazzesche. Vedevi crescere i nuovi fenomeni sociali, i nuovi movimenti. La Striscia della Morte, la zona che separava le due sezioni di muro, era terra di nessuno. E allora la gente si riuniva lì e teneva ogni notte interminabili feste illegali. Le torri di controllo si trasformavano in bar, lo stesso era per i locali nelle fondamenta dei palazzi abbandonati. C'era un incredibile mix di persone. I punk arrivavano da Marzahn, le drag queen da Schoenberg. Queste situazioni pazzesche erano figlie della caduta del muro. Le due Germanie si sono incontrate come un corso di acqua dolce che arriva al mare. Dopo l'entusiasmo dei giovani dell'Est e la circospezione dei tedeschi dell'Ovest, si è arrivati a un muro, un nuovo muro, costruito dalle differenze culturali e sociali dei due blocchi. Gioco forza, gli ossi, i tedeschi dell'Est, hanno dovuto accettare di diluirsi nel sistema dei vessi, degli occidentali, con tutte le conseguenze e i limiti che possono derivare da una assimilazione dolcemente imposta. Da uno studio condotto in Germania è venuta fuori un'ignoranza dilagante fra i giovani sulla storia recente della Germania. Paul Kalkbrenner, che dei giovani è un idolo, crede nella storia. È disarmante che adesso molti giovani ignorino il fatto che Berlino era divisa dal muro, che ignorino la storia. Per me la Wende è stato il punto di svolta della mia vita, ma me ne sono reso conto solo diversi anni dopo in realtà. Se adesso sono quello che sono, è solo perché il muro è caduto. La gente si sposta dove vuole nel mondo, può avere amici in ogni parte del pianeta. È triste che questi giovani non riescano ad apprezzare cosa hanno guadagnato quel giorno che il muro è caduto. Sono convinto che se conosci la storia, quello che è accaduto e quello che succede intorno a te, puoi controllare meglio la tua vita. Avete ascoltato Berlino 1989, avevo 20 anni, la quinta e ultima puntata de I Diari della Cortina di Ferro. Nicola Sessa ha curato testi e sonori. La regia e il montaggio sono di Angelo Miotto. Vi ricordiamo che nella giornata di lunedì 9 novembre Radio 24 dedicherà la puntata di 9 in punto, la versione di Oscar, all'anniversario della caduta del muro.